e denari di Nicoletta Carbone e Debora Rosciani. PPAP. I have a pen, I have an apple, apple pen, I have a pen. No, non avete sbagliato trasmissione, sono le 10.37, siamo a Cuore Denari, io e Debora ci siamo qua pronte per iniziare una nuova settimana. Debora. No, raccontami il motivo per cui hai scelto questa canzoncina d'inizio. Perché è un tormentone, perché insomma bisogna iniziare anche il lunedì con il passo giusto, con un sorriso, magari mettendoci alla prova con qualche cosa di divertente. Quello che stiate ascoltando è Pen, Pineapple, Apple Pen, che è un nuovo tormentone della rete, che è firmato dal cantante giapponese Picotaro. Cioè che già sono il nome è tutto un programma. E allora che ci invita a metterci alla prova quasi con uno scioglilingua. Anche quello è un modo per allenarsi e per cancellare un po' la tensione. Quindi tanto che il cervello cerca di mettere in moto la lingua, allora noi dimentichiamo un po' gli affanni. Si può provare anche in questa direzione. Sì, allora intanto voi diteci qual è il vostro preferito, se volete, all'800 24 00 24. Io me ne sono cercata qualcuno di soldi, di denari. Te ne leggo qualcuno? Sì. Pesa 6 volte al mese fare la spesa a Pisa. Poi? Teresa per la spesa stasera si reca a Stresa. Irma per la spesa parte per Parma perché le pare che a Parma si risparmia. Non ti sei neanche inciampato una volta. Le leggo. 33 trentini, questa sì, vabbè, supercalifragilistiche e spiralitoso. Non importa che tu parta con la borsa, se parti per far spesa basta la sporta. Allora, iniziate anche voi, 800 24 00 24, leggeteli, diteli a memoria, insomma andate con lo scioglilingua che sarà un po' la colonna sonora portante un po' del no, compagno. Però non è tutto così facile, ce ne devono portare uno di cuore e uno di denari, se no... Dai, anche Carmelo è già lì che pensa, dai Carmelo che ti portiamo un libretto anche a te. Un evento storico è Carmelo lì che pensa. Allora, è cattiva, il lunedì mattina morde, vedi? Sono un po' acida stamattina, fammi fare la borsa che mi diverto, va! Dai! Allora, visto che siamo già un po' sull'acidità, vi do anche la notizia ferale della settimana, che è quella che è quella che rivolgiamo a chi è abituato un po' ad organizzare con anticipo gli spostamenti della settimana. Allora, vi segnaliamo che si parla già di possibili disagi per i passeggeri delle Ferrovie dello Stato venerdì prossimo. Devi andare via? Sì, volevo andare a trovare la mia mamma a Torino. Vai in macchina. La società comunica... E se c'è la nebbia? No. Ma scusami, hai cambiato le gomme? Sì. Ecco, ma l'importanza è anche perché non uso la macchina mia, uso quella di mio marito. In una nota la società ha comunicato che alcune sigle sindacali autonome hanno proclamato uno sciopero del personale appunto del gruppo Ferrovie dalla mezzanotte alle 21 di venerdì 25 novembre. E via. E invece anticipiamo già che domani con il Sole 24 Ore c'è il volume della collana I tuoi diritti dedicato alla conoscenza di un tema che a te è molto caro, Nicoletta, ciò che bisogna sapere sul nostro Servizio Sanitario Nazionale. Di cui parleremo. Esattamente. E invece io mi riapproprio dei temi finanziari con la giornata di borsa che è di nuovo piuttosto nervosa e allora la faccio raccontare tutta. Pietro Calì, consulente finanziario di Copernicusim, buongiorno. Grazie, buongiorno a voi, grazie. 5 minuti di tempo per raccontarci un po' perché la settimana si apre di nuovo male per i mercati finanziari. Io faccio la lista della spesa, a lei il compito di fare l'analisi. Invece Londra meno 0,20, Parigi meno 0,41, Francoforte meno 0,51, faccio la graduatoria dal migliore a peggiore, Milano meno 1,19%. Come mai questo cattivo umore di questo lunedì mattina, Calì? Sì, siamo partiti anche questa mattina col freno a mano tirato in borsa, no? Perché come sempre capita in queste settimane il settore bancario, diciamo, sta zavorrando il nostro listino soprattutto. Oggi è una giornata importantissima perché abbiamo il board di Monte dei Paschi, quindi il CDA, che deve un attimo sindacare sulla conversione dei bond. Abbiamo seguito negli ultimi tempi che appunto c'è una parte degli obbligazionisti, quindi di coloro che hanno prestato soldi all'azienda, che vedrà convertirsi appunto i propri titoli in azioni, quindi aumentando anche il rischio. E questo perché sappiamo che Monte dei Paschi è in una situazione davvero abbastanza critica sul fronte del bilancio. Non le chiedo di non dire più nulla perché noi a questo argomento dedichiamo la parte di denari dalle 11 alle 11.30. Avremo un analista finanziario e avremo anche un'associazione dei consumatori. Per cui intanto Monte dei Paschi oggi in borsa meno 5,25%, ha avuto anche più volte delle sospensioni stamattina per la forte volatilità. Ma non è la peggiore perché la peggiore è Azimut, meno 6,52 e brutta giornata anche per Mediobanca, meno 4,5%. 4 punti e mezzo. Su questi due titoli specifici c'è un fatto oggi che pesa sull'andamento in borsa, Calì. Sì, esatto, c'è appunto la distribuzione del dividendo, quindi è tutto fisiologico questo ribasso. Anzi, Azimut, andiamo a vedere proprio nel dettaglio, la settimana scorsa è stata promossa dalla banca d'affari americana Goldman Sachs, quindi teoricamente ci sono notizie positive. Questo ribasso non è da valutare come un ribasso nervoso di borsa. No, anche perché almeno proprio quando, siccome questo maxi dividendo mi pare che era stato annunciato qualche settimana fa, il titolo aveva corso molto proprio perché gli investitori avevano acquistato parecchio proprio per accaparrarselo, diciamocelo chiaramente. Esatto. Ecco. Perché in questo senso Azimut distribuirà oltre 130 milioni appunto ai propri azionisti, e questa ovviamente è un'ottima notizia per tutti loro. E anche Mediobanca stacca la cedola, giusto? Anche Mediobanca stacca la cedola, anche per Mediobanca le prospettive sembrano molto buone perché è del settore bancario, ma ovviamente ha un tipo di operatività molto diversa, non è una banca commerciale, è una banca di investimento. Proprio per questo, secondo me, le prospettive sono buone e soprattutto la volatilità dovrebbe colpirla meno rispetto alle solite note. Domani, sì, a Londra c'è un appuntamento importante per un'altra grande azienda italiana. Esatto, piano strategico di Enel. Quindi vedremo l'aggiornamento appunto al nuovo piano di Enel, che sappiamo è in lizza con diverse società per cablare l'Italia, cablare i principali città italiane attraverso MetroWeb. Quindi si aggiunge un nuovo business per Enel, un business quasi a costo zero, perché sappiamo che la struttura Enel ce l'ha già. E quindi anche su questo fronte le notizie positive in parte ci sono su titoli, diciamo, delle utilities, ma anche su degli industriali. Quindi tema da tenere sotto osservazione in settimana. Esatto. Senta, Calì, lo spread si è alzato di buon umore stamattina oppure fa il paio con le borse? Lo spread sembra si sia aumentato perché ovviamente l'incertezza politica con il referendum alle porte diventa sempre più un problema. E sappiamo che venerdì ci sarà una nuova emissione di CTZ e anche di BTP indicizzati. Ecco, il fronte obbligazionario per i risparmiatori italiani inizia a diventare un problema, perché sappiamo che con i tassi in rialzo in tutto il resto del mondo, ecco, i prezzi delle proprie obbligazioni dovrebbero scendere. Quindi occhi aperti, si naviga a vista e speriamo in un referendum che non porti un'estrema volatilità. E qua non possiamo garantire nulla, naturalmente. Esatto. Soprattutto non possiamo prevedere nulla, visto che le previsioni ultimamente non è che vadano tanto, esatto, di moda, soprattutto quelle che vengono azzeccate. Senta, dal punto di vista invece americano, con la grande attesa che c'è attorno alla formazione della squadra di governo di Donald Trump, possiamo dare qualche indicazione? Comunque il mercato americano continua ad andare piuttosto bene, addirittura l'indice tecnologico venerdì mi sembra abbia toccato il suo nuovo record. Sì, l'indice tecnologico si è ripreso bene, nonostante all'inizio era il Dow Jones a fare molto meglio, perché sappiamo che Trump doveva essere legato maggiormente alla vecchia economia più che alla nuova economia. Detto ciò, ci ha sorpreso anche l'andamento dei bancari, che sono andati molto molto bene. Doveva essere il grosso spauracchio dopo la vittoria di Trump, in realtà sono andati meglio di altri. Quindi sicuramente il vento è stato positivo, a discapito di tutte le previsioni degli analisti che erano molto negative su Trump. Ricordiamoci un ultimo punto, che oggi il protagonista vero di questi mercati è anche il dollaro, no? Quindi con Trump, sì, che ha fatto apprezzare l'andamento del dollaro sull'euro, e questo è un risvolto positivo per quegli investitori che hanno sempre guardato al di là dell'oceano come nuovi investimenti. Intanto, per chi ce lo chiede, gli ascoltatori appunto vorrebbero sapere anche quali sono i migliori titoli di Piazza Affari questa mattina. Con un rialzo di circa 0,5% segnaliamo Luxottica, Saipem ed Eni, e quindi petroliferi. Stamattina il petrolio è tra i 47 e 48 dollari ed STM più 0,23%. Calì, grazie per essere stato con noi, buona giornata, grazie, buona settimana. Grazie, buona settimana. Grazie a presto, è il momento del traffico, direi. Andiamo e poi torniamo di nuovo insieme. Nuova Giulietta Winter Edition, optional per l'inverno, inclusi nel prezzo. Vi presenta. Cuore e denari. Lavare bene le mani, eccola qua la solita raccomandazione di buonsenso, ma anche una delle prime indicazioni per prevenire la trasmissione dei virus parainfluenzali e influenzali. A dirlo niente meno che la Società Italiana di Igiene e Medicina Preventiva e Sanità Pubblica, che, riuniti in questi giorni in congresso a Napoli, ha elaborato una serie di consigli utili per prevenire la trasmissione dell'influenza e naturalmente contrastarne i sintomi. Oltre a lavarsi le mani, si raccomanda anche di mettere le mani davanti alla bocca, al naso, meglio se con un fazzoletto pulito. Deborah, mi sembra di essere tua nonna, quando si tossisce perché o si starnutisce. Col naso sono un po' in difficoltà. Poi chi è malato stia a casa, bello, a riposo, per evitare anche il contagio, ecco, con altre persone. Cosa che io te mai. Perché noi predichiamo molto bene, razzoliamo malissimo. Perché il ciabattino va in giro con le scarpe rotte. Allora, e poi ci sono i rimedi della nonna che vanno sempre forte: bevande calde, brodo, tè, latte con il miele, che aiutano a reidratare l'organismo dai liquidi persi con la febbre, e poi le spremute d'arancia che garantiscono la vitamina C. Ma a quali altri alimenti e abitudini virtuose, lo metto tra virgolette, dobbiamo affidarci per rafforzare le difese immunitarie? Ci aiuta un grande amico di Cuore Denari, è tornato a trovarci il dottor Ongaro. Buongiorno, dottor Ongaro. Buongiorno Nicoletta, buongiorno Deborah. Eccoci. Allora, intanto, ai punti della Società Italiana di Igiene, lei, dottor Ongaro, risponde con i 7 principi base per rafforzare il sistema immunitario, una sorta di vademecum per il nostro sistema immunitario. Sì, allora, più che rispondo, diciamo, non vorrei creare degli antagonismi, trovo che i consigli dati siano assolutamente logici e utili. D'altra parte, visto che io mi occupo soprattutto dell'aspetto di mantenimento della salute, ritengo che ci siano alcune cose a livello nutrizionale che ci possono aiutare a priori e magari proprio evitare in primis di essere contagiati. Certo. E credo, no, l'abbiamo detto tante volte assieme, che la nutrizione abbia un grande potere nell'aiutare il sistema immunitario, e quindi assolutamente lo confermo. Allora, e quindi iniziamo con la vitamina C. Questo è il suo momento. Sì, la vitamina C è forse la prima cosa che viene in mente e logicamente ha una funzione antiossidante, ma anche di stimolazione del sistema immunitario, ed è una vitamina che noi possiamo ovviamente prendere con tanti nutrienti, che sono tanti alimenti, che sono anche presenti in questo periodo dell'anno, e oltre ad avere una capacità antiossidante è anche questa una di quelle vitamine che stimola il sistema immunitario e quindi tipicamente nota come la vitamina che aiuta nel caso di influenza e raffreddore. Non è l'unica e non è nemmeno la più importante, anzi la seconda infatti di cui parleremo, che è la vitamina D, io ritengo che sia ancora più importante di questa in un certo senso, insomma. E allora, mi scusi, lei sottolinea che l'ideale sarebbe assumere questa vitamina, parlo della C, per almeno 3 volte al giorno. Sì, diciamo, sarebbe più, come spesso accade con i nutrienti, è importante che ci sia un apporto continuativo piuttosto che un alto dosaggio ogni tanto. E quindi questa è una regola che vale un po' per tutto, è la regola dell'equilibrio alimentare, che vuol dire mangiare un pochino di tutto, sempre puntando alla qualità degli alimenti, piuttosto che il mega dosaggio ogni tanto. 3 volte al giorno dà ovviamente una protezione maggiore, e questa è una vitamina che troviamo negli agrumi, ma anche, non so, nel kiwi, in tanti ortaggi a foglia verde, nei broccoli, nelle cicorie, nelle puntarelle, buone, nel ravanelli, peperoni. Quindi insomma è una vitamina abbastanza presente. Quindi possiamo, dottor Ongaro, dire ai nostri amici, allora, nei 3 pasti da colazione, pranzo e cena, lasciate un po' di spazio dei prodotti che contengono vitamina C, non avete che l'imbarazzo della scelta. Certo, assolutamente, anche considerando che appunto molti di questi prodotti sono virtuosi per tanti altri motivi, poi, no? Perché hanno tante altre vitamine, fibra, quindi va assolutamente bene come regola. Però lei anticipava che la vitamina C non è l'unica che può aiutare il nostro sistema immunitario, anzi ce n'è un'altra ancora più preziosa. Sì, la vitamina D, di cui in effetti si parla molto in questi ultimi anni, spesso se ne parla solo relativamente all'osso, ma in realtà, o agli effetti benefici sull'osso, in realtà la vitamina D ha moltissimi altri effetti, è una vitamina con delle proprietà antitumorali ed è una vitamina che è capace di stimolare il sistema immunitario e regolarlo in maniera molto specifica e potente. Addirittura si pensa che una delle ragioni per cui siamo più esposti a patologie di tipo infettivo durante l'inverno sia proprio perché d'inverno abbiamo una quantità minore di vitamina D nel nostro organismo, perché come tutti ormai sanno la vitamina D viene prodotta con l'esposizione del corpo alla luce solare, e quindi d'inverno è ovviamente meno facile averne quantità sufficienti. Questa è una vitamina scarsa negli alimenti, abbiamo bisogno della luce solare, non di bruciarci al sole, attenzione, di prendere un po' di luce solare negli orari giusti, ma ovviamente questo d'inverno è molto difficile, e questa è una delle vitamine che giustifica di più un approccio intelligente all'integrazione alimentare, che parte dall'analisi ematica della vitamina D, che è un esame piuttosto ormai facile da fare. Sì, un esame del sangue, quindi. Un esame del sangue, e appurando il proprio livello di carenza, il medico sarà in grado, logicamente, di prescrivere la dose più giusta, e questa, devo dire, dal mio punto di vista, è una delle, al di là degli altri effetti che stavo citando, è una delle cose assolutamente più efficaci anche per prevenire le patologie infettive tipiche dell'inverno. Va bene anche per i bambini? Beh, allora, va bene indubbiamente anche per i bambini, che ne sono anche spesso carenti, però ribadisco il concetto, sempre a fronte di un'analisi, un controllo, un dialogo con il medico. Quindi non prendetela così, non integrate senza sapere il livello della vitamina D. Diciamo che la vitamina D potrebbe essere integrata senza saperne il livello a un dosaggio molto basso. Se volessimo fare delle terapie un pochino più importanti in termini di dosaggio, che sono poi quelle che servono per colmare delle carenze, ecco, in questo caso il mio consiglio assolutamente è quello di parlarne con il medico, fare l'analisi in modo tale da essere certi di assumere il dosaggio giusto. Gli altri consigli del dottor Ongaro, che passano naturalmente dalla riduzione dello stress, eliminare fumo e alcol, li trovate andando sulla pagina di Cuore Denari, dove trovate un link ai consigli del dottor Ongaro. Non nominate mai la vitamina C contenuta nel melograno, è vero, anche il melograno ha la vitamina C. Dottor Ongaro, buona giornata, anche per lei un po' di melograno, ci sentiamo presto, e adesso andiamo a sentire il nostro GR. Il segnale orario vi è offerto da Axerta, indaga, documenta, accerta, www.axerta.it. Vuoi diventare autore, creatore di format, redattore e conoscere i segreti del web, della pubblicità e del marketing radiofonico? Sintonizzati e frequenta il Master in Content and Management di Radio 24, RDS e 24 Ore Business School. A tua disposizione i massimi esperti del settore radio per una formazione completa ed esclusiva. Info su radio24.it e rds.it. State ascoltando un programma offerto da Columbia Threadneedle Investments. Il vostro successo è la nostra priorità. Cuore e denari. Eccoci qua, allora andiamo al nostro approfondimento di denari, andiamo su un tema che metterà in crisi, anche se non è che sentivamo proprio tanto la mancanza di un altro caso di difficoltà per migliaia di risparmiatori, allora dicevo metterà un po' in crisi, almeno per il momento emotiva, poi vedremo se finanziaria, almeno 40.000 persone, vale a dire i detentori di obbligazioni MPS. Monte dei Paschi, lo anticipavamo prima appunto nel corso del nostro collegamento sulla borsa. Come noto, questa banca che naviga in acque agitate da moltissimo tempo, anche stamattina riperde il 5% in borsa, sta provando a gestire una ristrutturazione radicale e deve ricapitalizzarsi. Un aumento di capitale, oltre a questo, sta cedendo anche tutti i suoi crediti in sofferenza, fa difficoltà a trovare ovviamente i compratori, perché si parla di tantissimi miliardi di euro. Per la ricapitalizzazione un semplice aumento di capitale non è sufficiente, anche perché sarebbe l'ennesimo in pochi anni e molti soci non vogliono più mettere altri soldi nella banca. E quindi l'ultima operazione annunciata è quella che prevede il riacquisto da parte della stessa MPS di 11 bond subordinati per un ammontare complessivo di 4,3 miliardi, fra i quali spicca, e lo enfatizziamo questo, il bond 2008-2018 da circa 2 miliardi di euro, che era stato specificatamente disegnato e autorizzato per essere collocato presso la clientela retail, cioè la clientela fatta da piccoli risparmiatori, ed era stata un'obbligazione che era stata emessa proprio quando Banca Monte dei Paschi ha fatto la clamorosa acquisizione di Banca Anton Veneta, dalla quale poi partì peraltro tutta la situazione difficilissima della banca. Allora, perché la situazione adesso è particolarmente complicata? Perché la domanda è: questa banca praticamente riacquista queste obbligazioni, e allora un risparmiatore che ce l'ha in mano, visto che non si sa se magari alla fine riuscirà a, come dire, restituirle del tutto, perché non vendere adesso, perché non ridargliele ora? Perché la banca non ti ripaga cash in contanti, c'è un contestuale obbligo di reinvestimento in azioni, e qui diventa tutto più difficile, perché non si capisce a che valore andrebbe fatto questo contestuale quale reinvestimento obbligatorio in azioni MPS. Anche il prospetto è molto complicato, c'è il faro della Consob su tutta questa operazione, ma noi oggi abbiamo ritenuto appunto necessario interpellare due esperti per capirci qualcosa. Jacopo Ceccatelli, amministratore delegato di Marzotto SIM, buongiorno, benvenuto. Grazie, buongiorno. E Alessandro Pedone, responsabile risparmio dell'Associazione dei Consumatori ADUC, buongiorno anche a lei. Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora, naturalmente, microfoni aperti ai nostri ascoltatori all'800 24 00 24 se vi trovate in questa situazione che è stata già ribattezzata il dilemma del risparmiatore, del prigioniero. Pedone, com'è che si chiama? Sì, il dilemma del prigioniero è un classico dilemma della teoria dei giochi, quindi è qualcosa, diciamo, di matematico. Infatti. Allora, adesso magari senza richiamare questa teoria, lo faremo in un'altra occasione, andiamo invece alle modalità con cui avete studiato questa situazione. Allora, intanto segnalo subito, poi me lo faccio raccontare nel dettaglio, che ADUC ha messo a disposizione delle persone che si trovano nella necessità appunto di decidere un servizio di consulenza gratuito. ADUC sta raccogliendo tutte le domande da parte appunto dei risparmiatori che hanno questa obbligazione in portafoglio, e per poi fare un punto della situazione generale per capire quale potrebbe essere appunto la convenienza economica o meno di aderire alla proposta fatta da Monte dei Paschi. Vado a Jacopo Ceccatelli, perché anche voi avete fatto un'analisi della situazione provando a capire quali sono i fattori che devono essere considerati. Intanto, si sa in che periodo verrà chiesto agli obbligazionisti se vogliono rivendere il bond in cambio delle azioni? Perché qua un prospetto circola, delle informazioni ci sono, ma non ci sono quelle più importanti, Ceccatelli. Ma sì, diciamo che i termini non ci sono, nel senso che non c'è né una data precisa, per esempio, di scadenza rispetto anche al prospettato aumento di capitale, per cui non si capisce esattamente se il periodo di conversione terminerà prima o dopo che ci sia l'aumento di capitale vero e proprio, che dovrebbe essere l'altra parte dell'operazione. E quindi questo è molto importante, perché chiaramente è fondamentale anche capire di che dimensione sarà, insomma ci sono una serie di incognite molto, molto, molto, molto importanti. E poi chiaramente non c'è il prezzo di concambio, che evidentemente determinerà che percentuale del nuovo Monte Paschi avranno gli obbligazionisti. Mm. Ci sono però i cosiddetti valori nominali di riacquisto delle obbligazioni. Non è un'informazione sufficiente questa? Ecco, ci spiega perché. Non essendo noto il valore del... Perché se ci fosse un riacquisto in contanti, diciamo, non ci sarebbe nessun tipo di problema. Ma non sappiamo il valore di quello che verrà dato agli obbligazionisti in cambio, perché, ripeto, è un'azione, qui entriamo nel tecnico, però intanto va segnalato che un conto è un aumento di capitale dove si versano dei soldi, quindi la società, almeno teoricamente, cioè anche in pratica, aumenta di valore in maniera equivalente. Un conto è un concambio dove i soldi sono già stati dati anni fa, e quindi nella nuova società, nel nuovo Monte Paschi, non entrano, diciamo così, dico nuovo inteso dopo l'operazione di aumento di capitali, non entrano dei soldi nuovi, quindi ci sarà comunque un effetto dilutivo, quindi il valore delle nuove azioni è molto difficile in questo momento da stabilire, e quindi anche capire questo 100 che viene ridato, questo 80, quanto varrà, è molto difficile. Certo. È, diciamo, impossibile. Ma è possibile pensare che il valore di conversione delle obbligazioni sia fatto ai valori di borsa recenti, Ceccatelli, oppure non è detto? Potrebbe anche essere che la banca sorprenda e riconosca un valore più alto, oppure, come dire, non è legittimo aspettarsi? Le incognite sono queste, e sono tante. Quanto verrà riconosciuto agli obbligazionisti rispetto al valore delle azioni attuali? Quindi quanto verranno diluiti gli azionisti? Potrebbero essere totalmente diluiti, oppure potrebbe essere riconosciuto il valore attuale anche agli azionisti? Cioè, e quindi qui ballano, diciamo, diverse decine di punti percentuali in termini di quanto gli obbligazionisti riceveranno. In più ci sono tutte le condizioni del futuro aumento di capitale, dove ci potrebbero... È vero che questo è parzialmente... diciamo a vantaggio degli obbligazionisti, è scritto nella proposta che le condizioni saranno uguali rispetto a chi sottoscriverà nuove azioni, e quindi diciamo c'è un pari passo, così si dice tecnicamente, quindi dovrebbero esserci condizioni simili, però per esempio non sappiamo se ci saranno per periodi di lock-in altre condizioni. Lock-in sono periodi nei quali non si possono vendere le azioni. Esatto. Cose, cioè, sono tantissimi dettagli che potrebbero poi determinare effettivamente quanto quell'obbligazionista riceverà. Certo. Quello che è certo è che diciamo, l'operazione a mio avviso sarà dilutiva, quindi difficilmente il 100 di riacquisto sarà effettivamente un 100, tanto è vero che le azioni trattano tutt'oggi molto al di sotto dei valori di, diciamo, nominali di riacquisto. Quello che purtroppo, ed è qui il riferimento giusto che facevate al dilemma del prigioniero, è che diciamo, se da un certo punto di vista il comportamento logico dell'investitore sarebbe quello di attendere e capire tutte queste informazioni, se vengono date, quando vengono date, dall'altro canto, se nessuno sottoscrive diventa meno probabile il successo dell'operazione, quindi paradossalmente il comportamento logico, che sarebbe quello di aspettare, rischia di danneggiare poi tutti quanti. Esatto, anche perché diciamocelo chiaramente, esatto, c'è anche questa come dire, considerazione un po' sibillina nel prospetto appunto dell'informazione, che dice qualora questa operazione di conversione dei bond in azioni non dovesse andare a buon fine, attenzione, perché potrebbe addirittura rischiare di saltare la banca, andare a risoluzione appunto, quindi secondo le nuove regole del bail-in. E anche questa non è che ci sembra un'affermazione tanto leggera da mettere così in circolo. Detto questo, sembra anche un po' una forma ricattatoria. Alessandro Pedoni, lei che in quanto a Tony, quando fa le sue riflessioni sull'atteggiamento utilizzato verso certe tipologie di risparmiatori, non è che la manda mai a dire, è d'accordo con me su questo aspetto o meno? Poi dopo andremo al vostro servizio di consulenza gratuito per quei risparmiatori che volessero fare un calcolo di convenienza all'adesione alla proposta MPS. Pedone. Sì, certamente. Allora, la situazione della banca è chiaramente una situazione estremamente difficile. In questo particolare momento la banca ha convenienza a calcare la mano su questo problema, perché naturalmente dicendo guardate che qui o convertite adesso volontariamente o è probabile che tra poco verrà o convertito obbligatoriamente o addirittura vedrete persi buona parte di queste obbligazioni, è chiaro che questo facilita o aumenta il numero di persone che potranno aderire a questa proposta, i cui termini, abbiamo ricordato prima, i dettagli di questi termini devono ancora essere formulati, quindi adesso sappiamo che ci sarà questo scambio, questa proposta di scambio, ma non sappiamo esattamente in quali termini, quindi stiamo parlando di un qualcosa di prepararci a questo, che è un bel problema, perché ricordiamolo brevemente, qui si tratta di investitori che in larga parte nel 2008 sono state offerte delle obbligazioni, quindi con l'obbligo poi di restituire il capitale, e adesso gli si propone invece di diventare azionisti e quindi rischiare completamente questo capitale. Ma non per il pari valore, peraltro. Completamente il profilo di rischio. No, tra l'altro stavo distraendomi su questa. Allora, i 40.000 appunto piccoli risparmiatori che detengono il famoso bond emesso nel 2008 per oltre 2.100 miliardi di euro allo scopo di finanziare l'acquisto di Banca Antonveneta. Peraltro voi anche nelle vostre informazioni in questo periodo state ricordando appunto come ai tempi sconsigliavate la sottoscrizione di questa obbligazione, ma in molti, ben 40.000 appunto risparmiatori, l'hanno in ogni caso sottoscritta. Il tema è che a prescindere dal fatto che appunto non c'è ancora il prezzo dell'azione al quale avverrà la conversione, le persone appunto non capiscono completamente che effettivamente rispetto al capitale inizialmente investito, Pedone, potrebbero perderci moltissimi soldi, no? E quindi non avranno, anche se decideranno appunto di fare la conversione accettando di fare di diventare appunto risparmiatori un po' con un profilo di rischio magari un po' più alto, però insomma la questione è molto complicata per questi aspetti. Purtroppo sì, la questione è assolutamente complessa e non riguarda soltanto, come dire, un caso generale. Non è che se si pensa che conviene una determinata opzione, questa opzione conviene per tutti i risparmiatori. In realtà è una questione estremamente soggettiva, perché dipende dal proprio profilo di rischio, dal proprio portafoglio finanziario. E c'è un elemento fondamentale che prima accennava l'altro esperto qui in collegamento, che l'esito non dipende solo da ciò che scegliamo noi, ma soprattutto dipende da ciò che sceglie la maggioranza, e paradossalmente a noi converrebbe scegliere ciò che tutti gli altri non scelgono, e quindi questo è un po' la questione del dilemma del prigioniero che accettavamo prima, ed è quindi un altro elemento di difficoltà nella scelta che va considerato. Quindi, voi avete fatto uno schema con quattro opzioni possibili, Pedone, ce le descrive? Sì, brevemente, sostanzialmente la cosa è aderire o non aderire, ma poi c'è anche cosa fa la maggioranza delle persone. Se io aderisco e la maggioranza delle persone aderisce, allora mi ritrovo con le azioni in mano ed è possibile che queste azioni possano avere un buon valore, perché è possibile che vada in porto la ristrutturazione. Ma se io aderisco e la maggioranza non aderisce, allora io mi ritrovo delle azioni in mano che molto probabilmente non varranno quasi niente, o comunque saranno all'interno di una banca che non vede in porto questa operazione, e quindi sarà una banca in qualche modo da ristrutturare. Quindi sostanzialmente mi trovo un po' nelle mani delle banche centrali, ma con delle azioni, quindi sono il primo soggetto a cui si chiederà di far fronte alla ristrutturazione di questa banca. C'è l'ipotesi che io non aderisco. Se io non aderisco e tanti, quasi tutti, aderiscono, sono in una situazione perfetta, quindi è l'inverso di quella di prima. Ma se io non aderisco e anche tutti gli altri non aderiscono, mi ritrovo nella situazione in cui la banca molto probabilmente dovrà essere soggetta a salvataggi. Quindi ora radiofonicamente è difficile, diciamo, infatti, immaginare questo. Infatti schemetto. Mi sono incartata pure io più volte stamattina, perché è proprio infatti, come dire. Il concetto di base è capire che la nostra scelta è soggetta a quello che sceglierà la maggioranza delle persone. Quindi è un elemento di complessità in più che dobbiamo introdurre nella scelta. Ecco perché nei nostri articoli noi diciamo non si può dare un parere per tutti, perché è talmente incerta la situazione che per poter scegliere meglio dobbiamo fare riferimento ad altri elementi, come qual è il nostro portafoglio, qual è la nostra propensione, qual è la nostra storia di investitore. Che rendimento ti ha dato anche l'obbligazione in questo periodo, ci metto, Pedone, perché se magari tu ti consideri soddisfatto, è stato un investimento remunerativo almeno fino a questo momento, quella famosa obbligazione lì? Quella del 2008, quella al servizio dell'acquisizione di Anton Veneta? Sicuramente no, perché i prezzi sono molto molto bassi, quindi come già avevamo scritto nel 2008 non era un'obbligazione da sottoscrivere, ma era evidente a chiunque, insomma, ma non lo diciamo adesso perché è troppo facile, l'abbiamo scritto nel 2008, ma purtroppo questo fa parte del discorso generale, per cui molto spesso in banca propongono le cose che conviene alla banca e non quelle che convengono ai clienti. Un'altra cosa che abbiamo appreso in questi anni, parlando spesso anche di tutto il tema delle obbligazioni subordinate, Ceccatelli, torno da lei: per chi in questo periodo, alla luce di quello che stava accadendo, avesse voluto, tra virgolette, liberarsi di questo titolo, la banca poteva riacquistare l'obbligazione in questione? O le obbligazioni in questione? Oppure allora, molti sono arrivati proprio a questo punto estremo e in questa condizione appunto di prigionieri adesso? Da che mi risulta, la banca è di fatto ha mantenuto un mercato per la clientela retail in questi anni. Il problema è che tendenzialmente nell'ultimo anno e mezzo il valore dell'obbligazione è stato sempre al di sotto dei prezzi di sottoscrizione, e quindi magari molti non sono stati incentivati a scambiarla. Sicuramente fino a qualche mese fa, se si consideravano tutte le cedole incassate, tutto sommato l'investimento poteva essere chiuso con anche in leggero utile in alcune fasi. Adesso purtroppo non è più così. Quindi questo comunque, da che mi risulta, la banca ha mantenuto un mercato per la clientela retail, mentre non però ha di fatto, insomma, un mercato per la clientela istituzionale. Però insomma, se c'è questa quantificazione, evidentemente ancora oltre 2 miliardi di euro in circolazione di obbligazioni appunto ce ne sono. Che è meglio, allora, evidentemente. Allora, stiamo andando verso la conclusione, un minuto a testa prima dei saluti per capire voi in questo momento cosa, anche qui dare suggerimenti per noi non è facile, ma cosa suggerire in questa fase ai possessori di obbligazioni. È chiaro che dobbiamo aspettare il prezzo della conversione, quando è che auspicabilmente si potrebbe sapere qualcosa? Oggi c'è un consiglio di amministrazione e poi l'assemblea, velocemente, Ceccatelli, secondo lei sapremo tutto dopo il referendum, peraltro, perché anche questo c'è. Io non manderei in onda Angelo da Asti perché non ha le obbligazioni, quindi direi di no. Sì, Ceccatelli. Ma sicuramente aspetterei quantomeno di avere qualche dettaglio in più. Io credo che anche attraverso i media i possessori di obbligazioni possano spingere un po' la banca a dare qualche dettaglio che possa far capire meglio come verrà svolta l'operazione, anche solo banalmente il dettagli come un prezzo di concambio o il fatto che non ci sarà lock-in potrebbero essere elementi importanti, e poi, come giustamente diceva il collega, ognuno dovrà fare le sue valutazioni tenendo presente appunto il fatto che è una decisione non banale, perché coinvolge la persona singola ma anche tutti gli altri, e quindi in funzione di questo non sarà facile dare indicazioni, anche secondo me quando ci saranno dettagli. Intanto c'era un ascoltatore di Salerno, che non riusciamo a far intervenire Vincenzo, che ci voleva raccontare che a febbraio gli scadono delle obbligazioni MPS, ma nel pacchetto pedone delle obbligazioni in questione ce n'è qualcuna anche in scadenza? No, così a breve, infatti, quindi sono altre emesse più recentemente. Voi invece in questo frangente pedone fate raccolta di così segnalazione da parte dei risparmiatori? Noi, il servizio che abbiamo pensato di fare, unico, è proprio quello di raccogliere un questionario con il profilo dell'investitore che ha queste obbligazioni, in modo da potergli dare un consiglio che non sia un consiglio generico, ma sia un consiglio basato sulle sue specifiche caratteristiche di investitore, perché, ripetiamo, i dettagli sull'offerta chiaramente sono fondamentali per poter scegliere, questo è evidente, ma non saranno sufficienti, perché la questione è talmente complessa dove dobbiamo far riferimento alle caratteristiche dell'investitore per fare una scelta consapevole e non soltanto alle caratteristiche dell'operazione in sé. Comunque la sensazione che si ha è che qualunque sia la decisione che si prende, il capitale investito sarà depauperato sensibilmente, così un po' occhio, Non è completamente detto. Se l'operazione avesse un successo potrebbe anche concludersi con un rendimento, però è incerta la situazione. Tenetevi pronti per quando avremo qualche informazione in più, così riproporremo questa trasmissione ai nostri ascoltatori. Grazie ad Alessandro Pedone e Jacopo Ceccatelli. Velocemente la giornata di borsa di oggi, poi andiamo all'approfondimento di cuore tra poco. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta. State ascoltando un programma offerto da Columbia Threadneedle Investments. Il vostro successo è la nostra priorità. Cuore e denari. London calling to the faraway towns. Now war is declared and battle come down. Debora, ti porto solo virtualmente. Andiamo, per il momento. Perché solo virtualmente? Sarebbe bello andiamo, andare a Londra. Dai, con i mercatini di Harrods e tutto lo shopping. Potremmo anche andare a fare un saltino. A Sterlina è conveniente adesso. Sì, dici che ci si può dopo arrivare Brexit lì e fare i regali di Natale. Sì. Potremmo anche andare a trovare questi ricercatori dell'Università di Londra che hanno studiato cosa succede nel nostro cervello quando diciamo una bugia o anche più di una bugia. Tipo non compro niente se vado a Londra. Brava, oppure guarda, mangio poco ma sono ingrassata. Perché la bugia sembra un po' come le ciliegie, funzionano come una tira l'altra. Una volta che si inizia a mentire si riduce la sensibilità del cervello alla disonestà. Insomma, il cervello vorrebbe essere onesto, ma poi la bugia scalfisce e manda in fumo questo proposito. E così si continua a mentire. Di bugie parliamo oggi con i nostri ospiti. In linea è tornato finalmente a trovarci il professor Paolo Cavedini, psichiatra, professore alla scuola di psichiatria all'Università di Firenze. Buongiorno professore. Oh, che piacere risentirvi. Ma finalmente. Buongiorno Deborah, buongiorno Nicoletta. Buongiorno. Tutti. E sono venute anche a Firenze questo weekend e ho seguito i consigli di Alessia, che voglio ringraziare, una nostra ascoltatrice che ci aveva mandato un messaggio con tutte delle indicazioni di cose da vedere. E ci raggiungerà tra poco anche il dottor Francesco Aquilar, presidente dell'Associazione Italiana di Psicoterapia Cognitiva e Sociale. Allora, professore, si mente, lo sappiamo, per educazione, per utilità, per difendere anche la nostra sfera privata, ma anche per affetto, per non offendere, per non ferire. Insomma, le bugie fanno, diciamola tutta, parte un po' della nostra vita, della nostra relazione, e mi permetto di mettervi in guardia da chi giura di non dire mai bugie. Con molta probabilità mente, perché d'altronde non sarebbe umano, non sarebbe un uomo, professor Cavedini, o una donna che sia. Sì, dai, è vero, siamo un po' onesti, se facciamo un po' di autocritica è facile constatare quanto no, le piccole e grandi bugie facciano parte un po' del quotidiano, al punto che poi facciamo anche un po' fatica a riconoscerle. Io dico che sono un po' il lubrificante dei rapporti quotidiani tra simili, e bene o male sono un pochino, fanno parte della nostra verità, col capufficio, ahimè qualche volta con la moglie, omettiamo magari delle mancanze, eliminiamo un po' le spigolature e siamo, secondo me, diventati tutti bravissimi a nascondere la natura, anche a noi stessi forse, vero? È vero, così, è proprio così, a volte mentiamo a noi stessi e poi facciamo fatica a riconoscerlo. Ma queste bugie, che sono, come ha detto lei, il lubrificante delle nostre relazioni, le diciamo con le parole, escono dalla nostra bocca ma nascono nel cervello. Cosa succede quando mentiamo? Quale aree si attivano? Perché i ricercatori londinesi si sono focalizzati su questi meccanismi? Allora, cominciamo a dire che le bugie danno un po' un vantaggio tattico e strategico, quindi in qualche modo il nostro cervello si è un po' plasmato attorno alla capacità di usare zone diverse rispetto al fatto di dire la verità o al fatto di mentire, ok? Al punto che si è potuto anche ricostruire quasi con una precisione millimetrica una vera e propria mappa cerebrale delle menzogne che coinvolge alcune aree, l'amigdala, il nostro sistema limbico, la corteccia, eccetera. Quindi la verità e le bugie sono ben distinte nella mente umana e attivano zone e aree cerebrali differenti, diverse, al punto tale da far sì che esistano dei processi differenti a livello cognitivo, a livello mentale, a livello cerebrale per il vero e per il falso. E la corteccia, della nostra corteccia frontale che tanto coinvolgiamo, si attiva in maniera differente anche rispetto al tipo di bugia che diciamo. Alcune aree più di sinistra hanno a che fare con le bugie più semplici, quelle più innocue, più ingenue, invece la corteccia di destra, che è abituata a sostenere ruoli molto più importanti, le grosse bugie, spesso quelle che noi diciamo per avere dei reali vantaggi rispetto agli altri. Vedi, allora 800 24 00 24, voi usate più la corteccia frontale sinistra o quella destra? In altre parole, le dite piccole o le sparate grosse? Ma soprattutto, quanto vi pesa non dire la verità? E quando a non dirvi la verità sono i vostri amici, i vostri conoscenti, li smascherate? Raccontateci le vostre esperienze di bugiardi o di persone alle prese con bugie altrui. Professore, mi pare di aver capito che il cervello quindi si attivi parecchio per confezionare una bugia. Gli tocca fare un super lavoro. Mentire stanca, stressa o allena? Sai, c'è un detto che dice, no, la verità fa male, giusto? Sì. Ma in realtà credo che sia esattamente vero il contrario. Mentire causa uno stress molto forte, danneggia direi un po' globalmente la salute, e quindi invece la sincerità di solito fa star bene. Le bugie costano molta fatica al nostro cervello e quindi bisogna chiedersi un po' se il gioco vale la candela. Il nostro cervello fa un grande sforzo perché attiva più aree, le attiva più intensamente, quindi uno sforzo cognitivo decisamente molto grande. Basta pensare, ad esempio, solo alla fatica che facciamo quando ci dobbiamo ricordare oppure dobbiamo sostenere una bugia che abbiamo raccontato, no? È molto più faticoso di quando invece non diciamo la cosa più vera o quella più plausibile, diventerebbe molto più semplice per tutti. Professore, tra l'altro c'è una ricerca molto interessante del professor Agliotti e della dottoressa Panasiti dell'Università La Sapienza, che dimostra che mentre si dice la bugia, per effetto dell'ansia o dell'imbarazzo, aumenta la temperatura in alcune zone del viso, in particolare, pensate un po', sul naso, insomma Pinocchio la sapeva lunga. E quindi in un certo senso è come se il cervello le confezionasse queste bugie, però il corpo in qualche modo parla, le smaschera, le parla. Infatti, a essere ben allenato, se noi una persona la conosciamo, capiamo quando mente, dal suo sguardo, dal modo di fare, sguardo da sfuggente, come, vero? Sì. Secondo me. Allora, dottore, lei riesce a individuare chi le racconta le bugie? No, sono un pessimo smascheratore di persone che mentono, o quantomeno me la racconto. Un boccalone, come si dice. Sì, la cosa del naso è simpatica, perché di fatto è la bugia scatena una forte reazione di adrenalina che aumenta il sangue a livello del naso, e quindi c'è più prurito effettivamente, una maggior quantità di sangue, quindi quelli che raccontano bugie si toccano il naso come fanno tante altre piccole cose. Il nostro cervello traduce spesso, no, nei correlati fisici, alcuni evidenti, alcuni un po' meno. E quando mentiamo, in qualche modo alcune piccole cose ci smascherano, no? Le microespressioni della faccia, piuttosto che i cambi del tono di voce. Però credo che ci siano dei bugiardi che sono diventati talmente bravi che il loro corpo in questi casi non li tradisce. Sono diventati bugiardi professionisti. Sono diventati dei bugiardi chi professionisti, anche dice o comunque sono veramente bravi. E io comunque non credo che, non esiste con assoluta certezza la possibilità di definire una persona che mente. Però possiamo ci sono anche, guidare. Professor Cavedini, delle persone che dicono bugie quando assolutamente non è necessario. Si inventano proprio delle storie e non riescono a farne a meno. Una sorta di bugiardo patologico. Andiamo da Giorgio, che ci chiama da Milano. Buongiorno Giorgio. Buongiorno, buongiorno. Lei usa la sinistra o la destra? Le spara piccole o le spara grosse? No, il problema è spararle piccole e grosse. Intanto bisogna distinguere assolutamente da chi dice che non dice mai le bugie. E questo l'abbiamo detto. Sì, l'ho sentito, volevo sottolineare questa cosa, avete ragione a dirlo, perché sono i peggiori esseri umani esistenti sulla Terra, perché sono dei falsi e dei bugiardi. A parte questo, io non solo dico che non è vero che la gente non dice le bugie, ma addirittura non c'è mai nessuna ragione per dire la verità. Ora, a parte quelli che dicono le bugie inutili, hai mangiato il riso, poi hai mangiato gli spaghetti, questo dei malati, ma nel contesto sociale, cioè nella vita di relazione con gli altri, non c'è mai nessuna ragione per dire la verità. Se uno dice la verità è una pura coincidenza. Faccio l'esempio, vado a casa di uno, ha un salotto che è brutto, io dico bel salotto, complimenti, perché devo offenderlo, se ne frega. Se il salotto è bello davvero, bianche, è una pura coincidenza. Certo. Una pura coincidenza. Quindi in realtà nella vita non c'è mai nessuna ragione per dire la verità. Quindi quando Giorgio da Milano ci chiamerà per dirci complimenti della trasmissione, per la trasmissione, Giorgio? È una coincidenza che la trasmissione è meravigliosa. Perché se anche non lo fosse lo direi lo stesso. Allora Giorgio, tanto che c'è, ci faccio un complimento e lanci le informazioni sul traffico. No, può darsi che sia utile anche dire la verità, cioè fa schifo, ma perché uno ha un interesse in questo caso. Senta Giorgio, allora c'è una verità, che adesso è tempo di andare a sentire le informazioni sul traffico. Vuole dirlo lei? C'è un incidente sulla tangenziale est. Va bene. Traffico pazzesco a Milano. Grazie. Strano. Sarà vero? Strano. Andiamo a sentire le informazioni, dai. Nuova Giulietta Winter Edition. Optional per l'inverno, inclusi nel prezzo. Vi presenta. Cuore e denari. Avete sentito, Giorgio ha detto la verità. Perché c'è. E chi te l'ha detto? L'abbiamo sincero. Ah no, sul traffico sulla tangenziale est, sì, certo, no. Hai sentito, quindi... Ma era una coincidenza. Però forse perché è un uomo, perché sono le donne, siamo noi donne a mentire di più. L'abbiamo letto i risultati di questa ricerca su un portale amico di Cuore Denaro, che è Salute 24. Andiamo a sentire. Le donne sono più bugiarde degli uomini. 4 su 5 dicono almeno una bugia al giorno. È quanto emerge da un sondaggio condotto su 2.000 cittadini britannici commissionato dalla compagnia assicurativa Privilege di West Yorkshire nel Regno Unito. Motivazioni? Il 55% degli intervistati ha dichiarato di mentire per far sentire meglio gli altri. Il 32% lo farebbe per non finire nei guai, mentre il 25% ha motivato la sua mancanza di sincerità affermando che la vita è complicata. E abbiamo in linea con noi Alberto da Verona a proposito non solo di vita complicata ma anche di bugie di donne. Buongiorno Alberto. Buongiorno. Che ci dice? Ma io ho un grosso problema con la mia compagna. Praticamente è una bugia dietro l'altra da parecchio tempo e riesco a accorgermene abbastanza spesso di queste bugie. Cioè, riesco a Ma ad esempio l'ultima bugia che le ha raccontato? Ma, l'ultima bugia che mi ha raccontato è stata quella che era scivolata dalle scale. E si era fatta male al costato, però poi alla fine non era vero. Lei ha controllato e ha scoperto che era una bugia. Sì, perché quando una persona cade dalle scale e si fa male al costato... C'è un livido, dice Alberto. Forse è una richiesta un po' di attenzione, ma giro naturalmente la domanda e anzi coinvolgo il nostro prossimo ospite, il dottor Francesco Aquilar, che vi avevo anticipato, ci stava raggiungendo. Dottor Aquilar, buongiorno. La metto subito al lavoro. La metto subito al lavoro. Abbiamo detto sono le donne a raccontare più bugie degli uomini. Le ricerche dicono 4 su 5 dicono almeno una bugia al giorno. Il nostro ascoltatore ci ha raccontato che la sua compagna racconta delle bugie, anche se vogliamo un po' ingenue, inutili, e questo potrebbe alla lunga mettere anche in crisi questa relazione, perché, dottor Aquilar, dal nostro compagno ci aspettiamo almeno una chiarezza, una trasparenza. Certo, intanto sulla ricerca, sul sondaggio ho molti dubbi, nel senso che io credo che le menzogne siano alla pari. L'unica cosa è che gli uomini mentono di più quando sono intervistati, dichiarando di non mentire per salvaguardare una loro immagine esterna anche nel sondaggio. E per quello riguarda noi, riguarda, quindi noi donne siamo sempre più perfette, insomma. E in questo le donne sarebbero state più sincere nel dichiarare le loro bugie. Ecco, vedi, alla fine torniamo lì. Ecco. Mentre invece, per quello che riguarda il nostro ascoltatore Alberto, dobbiamo tornare al motivo fondamentale per cui si mente, cioè al primo posto l'autodifesa e al secondo il tentativo di controllare le relazioni. Non sappiamo la compagna di Alberto se mente per autodifesa o per controllare la relazione, perché non la conosciamo, però può darsi che uno dei due obiettivi sia quello che c'è dietro la costruzione di episodi fantastici, oppure come... si diceva prima, per avere più attenzione, come no, che è sempre una forma di controllo della relazione. Dottor Aquilar, ma che cosa suggerisce lei, perché lei è l'esperto, chiediamo anche al professor Cavedini, di fare quando scopriamo che il nostro compagno, il nostro figlio, il nostro collega, insomma una persona, continua a mentirci, anche a raccontarci delle bugie che di per sé non avrebbero senso? Ma se la cosa è particolarmente importante, conviene tagliare la relazione con questa persona, nel senso che ci sono una serie di bugie che sono per certi aspetti inevitabili per attutire alcune forme di attrito che ci potrebbero essere, ma in alcuni casi il vantaggio della verità è che noi ci sentiamo amati se riceviamo delle verità. Se riceviamo delle bugie, ci sentiamo meno amati o meno considerati, perché quell'altro pensa che noi siamo così cretini che non possiamo tollerare la verità. A questo punto bisogna vedere anche il contrario, cioè se la bugia serve per l'autodifesa e il controllo della relazione, ovviamente chi riceve la bugia a sua volta deve autodifendersi e deve cercare di mettere in pari la relazione. Ecco perché quando la quantità di bugie viene raccontata ad oltranza, e forse vale la pena di fare un passo indietro o di fermarsi a rinegoziare la relazione, oppure tout court di tagliarla, perché altrimenti tutta l'interazione diventa falsata e noi non ci sentiamo né amati né presi in considerazione. Il mio collega quando mente balbetta, ci scrive Luca, vi ascoltiamo, siete sempre fantastiche, Rosciani numero uno. Non sappiamo se sono io in questo, ecco. Io non credo più a nessuno stamattina. Allora intanto 800 24 00 24, il professor Cavedini, che è ancora in linea con noi, vero prof? Sì, ci ha detto che insomma mentiamo anche a noi stessi. Allora dottor Aquilar, che cosa possiamo imparare di noi, delle nostre bugie? Ma noi mentiamo a noi stessi a volte quando non abbiamo chiara qual è la nostra identità, nel senso che le bugie sull'identità, su chi noi siamo e su che cosa vogliamo sembrare, a volte sono autoingannevoli. Ci possono essere delle persone che ritengono di essere più brave, più buone e più gentili di quanto di fatto siano, oppure al contrario delle persone che ritengono di essere in qualche modo più stupide, più incompetenti, più incapaci di quanto siano realmente. Per riuscire a discriminare questo occorre fare un lavoro di riconoscimento delle emozioni, perché poiché nelle nostre emozioni non possiamo mentire, se noi riusciamo a riconoscerle adeguatamente, riusciremo anche ad avere una verifica di alcune delle bugie che ci possiamo raccontare in buona fede. Abbiamo parlato, professor Cavedini, anche di chi dice bugie, non riesce a fare a meno di dire bugie. Siamo partiti dal primo studio che fotografava le aree del cervello di chi mente. Il bugiardo che in qualche modo compulsivo ha quindi un cervello un po' diverso dagli altri? Allora diciamo che un conto è il bugiardo patologico, che è quello che mente incessantemente per cercare di ottenere qualcosa e lo fa incurante delle conseguenze dei propri comportamenti, quindi in qualche modo è una strategia per affrontare la realtà. Il bugiardo compulsivo invece è quello che lo fa senza un fine specifico e mente giusto per abitudine, come ripetizione di uno stile di vita. In questo paziente, in questo soggetto, in questa persona che evidentemente ha seri problemi, no, di funzionamento nel mondo, nella realtà delle relazioni, a livello cerebrale il funzionamento della corteccia è sicuramente, come dire, un po' più difettoso, e quindi, come dire, questo sostiene il fatto che spesso questi comportamenti di tipo compulsivo si associano poi a tante altre modalità, non soltanto legate alle bugie e alle menzogne, ma proprio di tipo comportamentale in senso più lato. E allora chiudiamo con un consiglio del dottor Aquilar, il consiglio di uno psicoterapeuta comportamentale. Dottor Aquilar, a chi dice bugie? Prego? A chi dice bugie, oppure la storia insegna che? A chi dice bugie dobbiamo stare attenti a non fare eccesso di difesa, perché l'eccesso di difesa fa sì che la persona si senta sola e non si senta mai amata, perché quella persona che anche quando viene amata prova un'emozione piacevole, in realtà non è amato lui o lei, ma è amato il castello di bugie che ha costruito. Quindi attenzione, se vogliamo essere amati usiamo la verità come un'arma. Dottor Aquilar, la ringrazio per essere stata con noi, ringraziamo anche il professor Cavedini, vi diamo appuntamento a domani. E non è una bugia. Segnatevi le bugie che raccontate. Buona giornata.